Decimo canto del Purgatorio, dalla Divina Commedia di Dante Alighieri. Registrazione di pubblico dominio, effettuata per LibriVox da Filippo Gioachin. Purgatorio, decimo canto. Poi fummo dentro al soglio della porta, che il mal amor dell'anime disusa, perché fa parer dritta la via torta, sonando la sentii esser richiusa, e s'io avesse gli occhi volti ad essa, qual fora stata al fallo degna scusa? Noi salavam per una pietra fessa, che si moveva ed una ed altra parte, sì come l'onda che fugge e s'appressa. Qui si conviene usare un poco d'arte, cominciò il duca mio, in accostarsi or quinci or quindi al lato che si parte. E questo fece i nostri passi scarsi, tanto che pria lo scemo della luna rigiunse al letto suo per coricarsi, che noi fossimo fuor di quella cruna. Ma quando fummo liberi e aperti, su dove il monte indietro si rauna, io stancato e amendue incerti di nostra via, restammo in su un piano, solingo più che strade per diserti. Dalla sua sponda, ove confina il vano, al pie dell'alta ripa che pur sale, misurrebbe in tre volte un corpo umano. E quanto l'occhio mio potea trar d'ale, or dal sinistro e or dal destro fianco, questa cornice mi parea cotale. Lassù non eran mossi i pie nostri anco, quand'io conobbi quella ripa intorno, che dritto di salita aveva manco, esser di marmo candido e adorno, d'intagli sì, che non pur Policleto, ma la natura li avrebbe scorno. L'angel che venne in terra col decreto della molt'anni lagrimata pace, caperse il ciel del suo lungo divieto, dinanzi a noi pareva sì verace, quivi intagliato in un atto soave, che non sembiava imagine che tace. Giurato si saria ch'el dicesse ave, perché iv'era immaginata quella ch'ad aprir l'alto amor volse la chiave, e avea in atto impressa esta favella, ecce ancella dei, propriamente come figura in cera si suggella. Non tener pur ad un loco la mente, disse il dolce maestro, che m'avea da quella parte onde il cuore ha la gente. Per chi mi mossi col viso e vedea di retro da Maria, da quella costa onde m'era colui che mi movea, un'altra storia nella roccia imposta. Per ch'io varcai Virgilio e femi presso a ciò che fosse agli occhi miei disposta. Era intagliato lì nel marmo stesso lo carro e i buoi, traendo l'arca santa, perché si teme officio non commesso. Dinanzi parea gente, e tutta quanta, partita in sette cori, a due miei sensi faceva dir l'un no, l'altro sì, canta. Similemente al fummo degli incensi che v'era immaginato, gli occhi e il naso e al sì e al no discordi fensi. Lì precedeva al benedetto vaso, trescando alzato, l'umile salmista, e più e men che re era in quel caso. Di contra, effigiata ad una vista d'un gran palazzo, Micol ammirava, sì come donna dispettosa e trista. I mossi i piè del loco dov'io stava, per avvisar da presso un'altra istoria, che di dietro a Micol mi biancheggiava. qui v'era storiata l'alta gloria del roman principato, il cui valore mosse Gregorio alla sua gran vittoria. I dico di Traiano imperatore, e una vedovella li era al freno, di lagrime atteggiata e di dolore. Intorno a lui parea calcato e pieno di cavalieri, e l'aguglie ne l'oro sovressi in vista al vento si movieno. La miserella intra tutti costoro pareva dir: «Signor, fammi vendetta di mio figliuol che è morto, ond'io m'accoro». Ed egli a lei rispondere: «Ora aspetta tanto ch'i torni». E quella: «Signor mio», come persona in cui dolor s'affretta, «se tu non torni». Ed ei: «Chi fia dov'io, là ti farà». Ed ella: «L'altrui bene a te che fia, se il tuo metti in oblio». Ond'elli: «Or ti conforta, ch'ei convene chi solva il mio dovere, anzi chi mova, giustizia vuole e pietà mi ritene». Colui che mai non vide cosa nova, produsse esto visibile parlare, novello a noi, perché qui non si trova. Mentr'io mi dilettava di guardare l'immagini di tante umilitadi, e per lo fabbro loro a veder care, ecco di qua, ma fanno i passi radi, mormorava il poeta, molte genti, questi ne invieranno agli alti gradi. Gli occhi miei, ch'ammirare eran contenti, per veder novitadi ond'ei son vaghi, volgendosi ver lui non furon lenti. Non vo però, lettor, che tu ti smaghi di buon proponimento per udire come Dio vuol che il debito si paghi. Non attender la forma del martire, pensa la successione, pensa ch'al peggio oltre la gran sentenza non può ire. Io cominciai: «Maestro, quel ch'io veggio muovere a noi non mi sembian persone, e non so che sì nel veder vaneggio». Ed egli a me: «La grave condizione di lor tormento a terra li rannicchia, sì che i miei occhi pria n'ebber tencione, ma guarda fiso là e disviticchia col viso quel che vien sotto a quei sassi. Già scorger puoi come ciascun si picchia. O superbi cristian, miseri lassi, che della vista della mente infermi fidanza avete nei retrosi passi, non v'accorgete voi che noi siam vermi, nati a formar l'angelica farfalla che vola alla giustizia senza schermi? Di che l'animo vostro in alto galla, poi siete quasi antomata in difetto, sì come vermo in cui formazion falla? Come per sostentar solaio o tetto, per mensola talvolta una figura, si vede giugner le ginocchia al petto, la qual fa del non ver vera rancura nascere in chi la vede? Così fatti vid'io color quando puosi ben cura. Vero è che più e meno eran contratti secondo ch'avien più e meno addosso, e qual più pazienza avea negli atti, piangendo parea dicer: «Più non posso». Fine del decimo canto del Purgatorio.